C. Buonanotte. 1. Ascolta i messaggi. Anna. Ciao, tutto bene? Sono stata con Michele e una coppia di amici in un nuovo ristorante. Siamo stati molto bene perché abbiamo chiacchierato tutta la sera e abbiamo scoperto di avere molti interessi in comune. Siamo rimasti molto tempo al ristorante e non abbiamo mai guardato l'orologio. Infatti, abbiamo fatto tardi. Siamo usciti solo mezz'ora fa. Benedetta. Ciao! Anche noi siamo appena arrivati a casa. Abbiamo visto un film al cinema. Secondo Giorgio, il film è durato troppo. È cominciato alle 20:30 ed è finito alle 23. Lui, come sempre, preferisce gli spettacoli brevi e dal vivo. Ah, ma voi non siete andati a teatro? Anna. Abbiamo fatto tardi e abbiamo rinunciato allo spettacolo. Pazienza, quando tornate in Italia possiamo andare insieme a teatro e scegliamo uno spettacolo breve. A proposito, quando tornate qui? Benedetta. Ma siamo praticamente appena scesi dall'aereo. Siamo ritornati qui a casa solo un mese fa. Anna. Già, hai ragione. Ora tocca a noi venire in Francia. Benedetta. Quando vuoi. Per adesso buonanotte e a domani. Anna. Buonanotte.